Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia in mia compagnia, al microfono Simone Spezia, insieme fino come sempre alle 18.30. Sentirete delle sonorità di sottofondo piuttosto strane perché ci troviamo ad Expo, trasmettiamo da Expo, siamo ospiti del padiglione Emilia Romagna, tra l'altro oggi c'è una festa di inaugurazione e tra poco è presumibile che sentirete suonare qualcosa, presumibilmente sentirete suonare del liscio. Non è per questo però che la puntata di Focus Economia, come dire, è importante che l'ascoltiate oggi, è per i temi che trattiamo ogni giorno, per quanto, come dire, possa essere un fatto piuttosto curioso. Che temi toccheremo oggi? Parleremo di Alitalia, di queste dimissioni improvvise dell'amministratore delegato, ne parleremo come sempre, come spesso facciamo in questi casi, con Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, che ci potrà dare un quadro un po' più preciso. Nel comunicato, meglio nelle voci che si sono diffuse nelle ultime ore, si parla di ragioni personali, ma forse ci sono in realtà anche delle ragioni che riguardano specificatamente i conti. Ci occuperemo della Federal Reserve. Come sapete, come ormai sapete, ieri la Federal Reserve ha deciso di lasciare i tassi di interesse fermi tra lo 0 e lo 0,25%. Tutto questo sta avendo un impatto sui mercati. Il FTSE MIB c'è del 2,15%, il FTSE All Share l'1,97%. Negative sono tutte le piazze finanziarie europee e tra poco ovviamente vi vado a recuperare anche l'andamento della borsa americana. Il Dow Jones cede l'1,08%. E per quanto riguarda lo Standard & Poor's 500 il calo è dello 0,87%. La Fed ha messo l'accento, come sentiremo e come sentiremo tra poco, ha messo l'accento anche sui rischi che possono derivare dai problemi che stanno arrivando dai paesi emergenti, in primis la Cina. Ci occuperemo di economia italiana. Ieri abbiamo parlato diffusamente dei dati diffusi da Confindustria al suo centro studi che ipotizzano una crescita del PIL dell'1% nel 2015, oggi ci sono anche quelli di Confesercenti che prevede un più 0,8%. Insomma, un po' da tutti i centri studi delle varie associazioni, così come dall'OCSE, filtra un cauto ottimismo. Certo, siamo sempre sullo 0, in questo caso appunto 0,8%, e però qualche segnale evidentemente viene identificato. Non possiamo non occuparci oggi di una vicenda sindacale che fa discutere e farà discutere il Paese. La vicenda del Colosseo e dei siti archeologici romani. Ve lo ha raccontato bene il giornale radio, continueremo a farlo noi e andremo a commentare. Insomma, cosa è successo? Che questa mattina i lavoratori del Colosseo e degli altri siti archeologici romani hanno indetto un'assemblea. Era in realtà un'assemblea indetta da due giorni, già convocata, che ha fatto sì che i cancelli aprissero alle 11:30. Come è già successo in passato per altre assemblee, ricordiamo Pompei per esempio, la scena è stata sempre la solita: turisti in fila tra chi capiva e chi non capiva, presumibilmente i non italiani non capivano e gli italiani invece capivano benissimo, con una certa rabbia. Vedremo di commentare la cosa, anche perché oggi in Consiglio dei Ministri, oltre al DEF, il documento di economia e finanza, dovrebbe arrivare un provvedimento dedicato proprio a questo. L'idea è di inserire i musei e i siti archeologici nei servizi pubblici essenziali. Questo che cosa vuol dire? Che saranno trattate le assemblee, gli scioperi saranno trattati esattamente come vengono trattati per esempio nel trasporto pubblico locale o nel trasporto, con per esempio un vaglio preventivo della commissione di garanzia che dice se quell'azione è lecita oppure no, e soprattutto evidentemente a questo punto con una maggiore pubblicità, per così dire, in maniera che la gente che va in questi posti sappia prima che cosa sta per succedere. Questi tutti gli argomenti, il 349-238-6666 per i vostri sms, le notizie in breve di oggi. mi dicono di dire che non è il padiglione Emilia Romagna, ma è lo spazio Emilia Romagna qua Expo Milano 2015. Tra l'altro, se volete venirci a trovare, siamo in diretta anche nei prossimi giorni con varie trasmissioni. Insomma, ci trovate nella zona sostanzialmente dove ci sono un po' tutti i padiglioni delle regioni italiane. Siamo davanti al padiglione dell'Unione Europea, non distanti dall'albero della vita. Oro in lieve rialzo a 1139 dollari l'oncia, più 0,74%, e aperture in calo per il petrolio. Sto cercando la quotazione precisa in questo momento, ma come dire, siamo ancora in assetto variabile in questo spazio che abbiamo occupato solo questo pomeriggio. Comunque in calo all'apertura, 45,59 dollari al barile, a 2, un calo del 2,79%. La Federal Reserve, poi ci torneremo più avanti perché ci sono state molte critiche alla decisione della Federal Reserve di non rialzare i tassi adesso. Restano fermi ai minimi storici tra lo 0 e lo 0,25%, una decisione non unanime. Ha votato contro Jeffrey Laker, presidente della Fed di Richmond, che spingeva per un aumento dei tassi. Janet Yellen, la presidente della Federal Reserve, ha detto che l'importanza del primo aumento dei tassi di interesse non deve essere esagerata. La tempistica dipende dall'outlook dell'economia. A questo sono dedicati 100 secondi di Radio 24 del Sole 24 Ore in collaborazione con RDS Radio Dimensione Suono, firmati oggi dal vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. La Fed, la banca centrale americana, ha quindi rinunciato ad aumentare i tassi USA. Lo ha fatto per due ragioni. La prima è che l'inflazione anche negli Stati Uniti resta molto bassa. La seconda ragione, forse la più importante, è il timore che la frenata dell'economia cinese e degli altri paesi emergenti possa compromettere anche la ripresa americana. Così un aumento dei tassi USA rischiava di determinare un forte afflusso di capitale verso gli Stati Uniti dai paesi emergenti, aumentando ancora di più le loro difficoltà. Bene, ma come hanno reagito oggi i mercati a questa decisione? Ci si aspettava che le borse avrebbero gradito il nuovo rinvio, invece non è stato così. Tutte le borse europee, anche Wall Street, sono in calo, forse perché la decisione della Fed conferma le preoccupazioni sullo stato di salute dell'economia emergenti, il che ha spaventato gli operatori. Più prevedibili invece le altre conseguenze legate alla scelta della Fed. Innanzitutto, e questa è una buona notizia in chiave di conti pubblici, con i rendimenti dei titoli di Stato che oggi sono in calo, e poi con gli effetti sul mercato dei cambi. In questo caso il rinvio della stretta sui tassi ha determinato il rafforzamento dell'euro sul dollaro, con la divisa americana più debole che è tornata sopra la soglia di 1,14. In questo caso però non si tratta proprio di una buona notizia per il nostro export, che rischia di essere penalizzato da un euro un po' più forte. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS, e in video su radio24.it e rds.it. Come qualcuno ci scrive, ma non parlate più di Grecia. Ma come non parliamo di Grecia? Ne ha parlato Oscar Giannino per mezz'ora, giusto un istante fa. Noi ci torneremo lunedì all'indomani delle elezioni. Per quanto riguarda l'Italia, ecco, dichiarazioni che arrivano a proposito nel giorno nel quale il governo si riunisce anche per varare il DEF, il documento di economia e finanza che precede la legge di stabilità. abbiamo l'analista sui debiti sovrani di Moody's, Marco Zaninelli, che dice che i tagli fiscali possono minare il consolidamento dei conti pubblici se non adeguatamente finanziati, e questo lo sapevamo, se vogliamo è quasi una banalità. Però dice anche: quanto all'annunciato calo delle imposte sulla casa, in generale le tasse sulla proprietà sono meno distorsive di altre, mentre la riduzione delle tasse sul lavoro e sulle imprese ha un impatto positivo sul merito di credito, ossia sul voto che le agenzie di rating danno al paese. La sostanza è: fareste meglio a tagliare le tasse sulle imprese e sul lavoro piuttosto che quelle sulla casa, per semplificare al massimo. Si diceva dei dati di Confesercenti: nel 2015 dicono la crescita del PIL italiano sarà dello 0,8%, con un forte traino da parte del turismo. Questa è la previsione dello studio REF Confesercenti, diffuso in occasione del meeting dell'Associazione dei Commercianti vicino a Perugia. A pesare molto saranno l'Expo, dal quale tra l'altro vi trasmettiamo oggi, e il Giubileo. Di oggi sono poi i dati sulla cassa integrazione. Ad agosto sono state autorizzate 39,3 milioni di ore di cassa integrazione, con una diminuzione del 41,7% rispetto ad agosto 2014. E c'è su questo il commento del ministro del lavoro, Giuliano Poletti. La diminuzione complessiva corrisponde a più di 100.000 lavoratori in cassa zero ore tornati a lavorare a tempo pieno, spiega Poletti. Mentre il presidente di Confindustria Squinzi dice: speriamo sia un segnale positivo e che venga confermato nei prossimi mesi. Aggiunge Squinzi, a chi gli chiede se le riforme messe in campo per far uscire l'Italia dalla crisi sono sulla strada giusta, dice: penso di sì, mi auguro si arrivi in tempo. Proprio a margine di un evento di Confindustria Emilia Romagna ad Expo, sentiamo alcune delle frasi di Squinzi. Speriamo che questo sia un segnale positivo che venga confermato nei prossimi mesi. Piano piano sono tutti i tasselli che vanno in senso positivo. Cioè, fiducia, però non esageriamo, perché credo che per uscire veramente dalla crisi e parlare di ripresa bisogna tornare sui livelli che io dico del 2% da febbraio del 2013, quando il progetto di Confindustria per l'Italia partiva proprio da una crescita del 2%. Approfittando dei fattori esterni che spingono nella direzione giusta, come il cambio del dollaro, il costo del petrolio, la disponibilità di capitali grazie al quantitative easing della Banca Centrale Europea, noi quello che dobbiamo fare sono le riforme, tutte le riforme, dalle istituzionali che assicurano più governabilità al Paese, più stabilità nella governabilità del Paese, a tutte le altre riforme di cui abbiamo assolutamente necessario, tipo la pubblica amministrazione, che poi è la madre di tutte le riforme. Ma io ritengo che sia necessario assicurare una maggior stabilità alla governabilità del Paese, ecco, questo è fondamentale per la parte istituzionale. Come italiani lo sapevamo, il nostro Paese ha tali capacità e tali risorse, io non l'ho mai sentito il pericolo. Quello mi preoccupa, perché la crescita lenta dell'Europa e dell'Italia mi preoccupano moltissimo, perché in questa situazione non riusciamo a creare nuovi posti di lavoro, e noi abbiamo bisogno di creare posti di lavoro per riassorbire il 13% di disoccupazione e il 44% di disoccupazione giovanile. Oh, ci chiedete, tra l'altro, se c'è gente all'Expo. Allora, è il nostro punto di osservazione, evidentemente, cioè non è che abbiamo... siamo qua a contare gli accessi, come direbbe qualcuno. Lo stesso Squinzi dice: un vero successo, al di sopra delle mie previsioni, istituzioni da tutto il mondo e code di gente. In effetti noi siamo qua sul cardo dell'Expo e c'è una fila sterminata di gente che vuole entrare nel padiglione Italia. Forse a questo punto inizierete a sentire di sottofondo Romagna Mia, che inizia a suonare proprio accanto a noi. Come si diceva, siamo nello spazio Emilia Romagna, anche questi sono dettagli. Qualcuno chiede, oltre a chiedere a gran voce il ritorno di Sebastiano Barisone, non vi preoccupate, torna, sarete ancora lunedì con me e poi martedì torna lui. Chiede anche la famosa rubrica sugli sprechi. Allora, è cosa di Sebastiano e gliela lascio. Detto ciò, vi posso fornire qualcosa di interessante che è uscito proprio oggi, e quindi restiamo sulle notizie. Riguarda le opere incompiute di carattere nazionale al 2014. Sono 868, di cui 215 in Sicilia, che si piazza al top fra le regioni. Da segnalare che a fine 2013 erano 692, quindi sono aumentate le opere incompiute, sono 150 in più circa. 93 opere da terminare in Calabria, 81 in Puglia, la provincia autonoma di Trento non ha opere incompiute come nel 2013, la Val d'Aosta solamente una, Umbria e Liguria 11. Quelle del Ministero dei Trasporti sono 40 rispetto alle 35 del 2013. Tra queste, la città dello sport di Tor Vergata, 607 milioni di euro. E 406 per completare i lavori, eseguiti solo per il 16,25%. Sempre in Sicilia sono 40 le incompiute vere, con uno stato di avanzamento dei lavori inferiore al 20%. Poi, tra le altre notizie, c'è quella del Colosseo, l'avete sentita ampiamente nei giornali radio, ve l'abbiamo ricordata poco fa, ci torneremo più avanti alle 18:10, cercheremo anche di commentare questa vicenda, questo blocco che ha lasciato i turisti in fila, non come ad Expo, che stanno là ad attendere perché c'è troppa gente, ma semplicemente perché c'era un'assemblea sindacale, quindi masse di turisti fuori dal Colosseo in attesa fino alle 11:30, quando è aperto, con poche o nessuna informazione. Veniamo al primo tema di giornata, all'Italia. Eccoci a parlare di Alitalia dunque, perché oggi si è dimesso l'amministratore delegato Silvano Cassano, ufficialmente per ragioni personali. Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Sono le ragioni personali o no? Personalissime, al punto che nessuno ha parlato, nessuno ha fiatato, ma il saluto del comunicato di Alitalia all'amministratore dimissionario è stato piuttosto sbrigativo, piuttosto generico, quindi questo fa pensare che dietro le ragioni personali, pur non conoscendo il motivo reale, ci siano altre ragioni. Quali possono essere queste altre ragioni? Noi sappiamo che l'avvio dell'Alitalia, nonostante le dichiarazioni di abbastanza ottimismo, che i risultati sono in linea con le aspettative, invece anche questa nuova Alitalia targata Etihad, quindi targata Abu Dhabi, i soci arabi sono i più forti nella compagine azionaria, ha delle difficoltà nei conti, pur avendo avuto una riduzione dell'indebitamento che le banche si sono accollate. Quindi ancora difficoltà, conti in rosso, conosciamo solo quelli del primo trimestre ufficialmente, che hanno una perdita che sarebbe di 200 milioni di euro, poi c'era stata una plusvalenza per la vendita del programma Mille Miglia alla stessa Etihad, quindi la perdita effettiva netta e si è ridotta a poco più di 100 milioni, ma si parla di difficoltà di conti ancora in forte sofferenza, anche se non abbiamo dei dati ufficiali. questo potrebbe essere una delle ragioni. Non so se poi Cassano sia il capo espiatorio anziché essere, perché diciamo lui godeva della fiducia iniziale di Hogan, il capo di Etihad, che è un po' il punto di riferimento anche della nuova Alitalia, anche se lui è solo vicepresidente e non è operativo. Allora Gianni, le deleghe, da quel che ho capito, l'ha prese Montezemolo per il momento. Immagino non si facciano ancora ipotesi su chi possa essere il successore. Non ci sono indiscrezioni. Per il momento Montezemolo come presidente ha le deleghe che erano del dimissionario di Cassano, che si è dimesso, e comunque ha subito indicato che la gestione non sarà, diciamo, non si occuperà direttamente della gestione, ma questa sarà per il momento, finché non viene individuato il nuovo amministratore delegato, affidata a due direttori, uno dei quali, guarda caso, un uomo di Etihad, il direttore finanziario Duncan Naismith, e veniva considerato l'uomo forte, aveva dei poteri tali che limitavano anche quelli dello stesso Cassano, l'amministratore delegato. Non escluderei che la scelta potesse cadere anche su di lui, sarebbe, diciamo, non un italiano, ma ormai l'Alitalia è solo formalmente, diciamo, controllata da soci italiani. Comunque quello che conta è che venga gestita in modo, diciamo, efficiente, con un buon servizio. Sembra anche da altri indici che lamentelo, visto di lettori che hanno scritto i giornali, insomma, per il momento la cosiddetta nuova Alitalia di nuovo aveva soprattutto solo il nome, basta. Grazie a Gianni, grazie, Dragoni, ciao, ciao. Del Sole 24 Ore per questa analisi, e questo racconto su Alitalia. Noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa, poi andremo a parlare delle decisioni della Federal Reserve e anche dell'andamento della borsa, che ha chiuso sui minimi, il FTSE MIB giù del 2,6%, il FTSE O'Share dell'1,91%, negative anche le altre borse finanziarie europee, mentre anche l'America c'è dell'1,17% sul Dow Jones e lo 0,98% sullo Standard & Poor's 500. Una pausa tra poco. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Di nuovo buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa seconda parte di Focus Economia in diretta dallo spazio Emilia Romagna ad Expo Milano 2015. Se vorrete venirci a vedere, a trovare, siamo, per farvi capire, proprio davanti o quasi davanti al padiglione dell'Unione Europea, a poca distanza dall'albero della vita, sul Cardo. Chiarimento, un ascoltatore dice, quando dite un calo dei mercati, abbiamo parlato del FTSE MIB del 2,6%, che cosa si intende, 2,6 o 2,06? Se fosse stato 2,06 avrei detto 2,06%. E un'altra nota ai soliti messaggi che arrivano in questi casi, sia quando... sono io qua al microfono, che quando c'è Sebastiano Barisoni, nessuno impone il cauto ottimismo sull'andamento dell'economia italiana. Piantatela con questa storia che saremmo eterodiretti. Ci stiamo limitando a dare una serie di previsioni fornite da istituti di ricerca di diverso genere. Ieri era la Confindustria, il centro studi, che stima un più 1% per il 2015. Oggi è Confesercenti, più 0,8%. L'altro ieri era l'Ocse, che stima un più 0,7%. È gente che ci mette la testa e ci mette degli economisti. Se esprime cauto ottimismo, noi riferiamo che queste persone esprimono cauto ottimismo. Siamo dei giornalisti, non stiamo noi a fare le valutazioni sull'andamento dell'economia. Così la smettiamo un po' con questa storia. Per intenderci, per essere ancora più precisi, non abbiamo da tirare la volata a nessuno. We'll be right back. Veniamo a economie che crescono un po' più dello 0, comunque, quella americana. Ieri alle 20.30 italiane, come nelle attese, la Federal Reserve ha annunciato la sua decisione sui tassi, ha deciso di lasciarli fermi tra lo 0 e lo 0,25%, ai minimi storici. Una decisione non unanime. La presidente della Fed, Janet Yellen, ha detto che l'importanza del primo aumento dei tassi di interesse non deve essere esagerata. Non sempre la Federal Reserve fa conferenze stampa dopo le decisioni sui tassi. Ebbene, in questo caso c'è stata. Sentiamo un passaggio dell'intervento della Yellen. Il Federal Open Market Committee ribadisce la sua posizione, mantenendo i tassi nella forchetta tra lo 0 e lo 0,25%. I recenti sviluppi economici e finanziari a livello globale probabilmente metteranno ulteriore pressione all'inflazione nel breve termine. Questi sviluppi potrebbero anche rallentare il passo dell'economia. La situazione generale non ha però portato ad una significativa revisione della nostra prospettiva sull'economia. Continuiamo a sostenere che sarà appropriato alzare i tassi quando vedremo ulteriori miglioramenti del mercato del lavoro e quando saremo ragionevolmente fiduciosi che l'inflazione ritornerà verso il suo target del 2% nel medio termine. L'importanza del primo aumento dei tassi di interesse non deve essere esagerata. Franco Bruni, docente di economia monetaria internazionale all'Università Bocconi di Milano, editorialista della Stampa, buonasera. Buonasera. Se ho capito bene, non l'ha convinta la decisione della Fed, o meglio la non decisione della Fed, se così vogliamo dire. Ma non so nemmeno se avesse intenzione di convincermi, cioè ha fatto una spiegazione della non decisione molto confusa, dicendo che le cose sì vanno abbastanza bene ma non abbastanza, però bisogna aspettare, che c'è un po' di rischi qui e là, ma insomma una banca centrale deve invece spiegare esattamente come ha intenzione di recepire i dati, come li elabora, con quali criteri deciderà a un certo punto di uscire da questa trappola dei tassi nulli, e invece non ci ha fatto sapere. Non ci ha dato una regola, non si è legata le mani con una regola, e una politica monetaria senza regole crea incertezza e aumenta l'instabilità invece di stabilizzare e di dare un orizzonte di lungo periodo. Perché se ricordo bene, mi corregga se sbaglio, professor Bruni, sotto la guida di Ben Bernanke si era impostata l'idea che il rialzo dei tassi ci sarebbe stato nel momento nel quale la disoccupazione sarebbe arrivata sotto al 6%, se non ricordo male, no? Come impostazione generale. Poi in realtà la disoccupazione è scesa sotto questo livello e la Fed non si è mossa. Tra l'altro sono smentiti diverse volte. Tra l'altro fissare la disoccupazione così, d'emblée, come obiettivo intermedio della politica monetaria è una cosa che non ha senso. Fra la politica monetaria e l'occupazione c'è un intervallo enorme. La politica monetaria deve guardare a cose molto più vicine a lei, come la situazione di liquidità delle banche, delle imprese, dei mercati, il fluire del credito e i prezzi, insomma. Non vuol dire fissare disoccupazione. La disoccupazione dipende da 100.000 cose che la banca centrale non è in grado di controllare. Gli Stati Uniti hanno perso completamente la capacità di leadership monetaria e la banca centrale ha probabilmente perso completamente la sua indipendenza. Ci sono pressioni da tutte le parti. Ecco professore, io su questo vorrei tornare con lei. Adesso noi andremo a sentire che cosa succede sulle strade, però è una questione che abbiamo ripetuto sempre, è che il vero capitale di una banca centrale non è, come dire, la moneta che può emettere o quello che può stampare, ma è esattamente la sua credibilità. Io vorrei capire da lei se la sua impressione è che la finora rispettatissima Federal Reserve, invece la credibilità la stia perdendo, ma dopo il traffico. Focus Economia. Eccoci di nuovo, 349-238-6666 per i vostri sms. Siamo ancora con Franco Bruni, docente di economia monetaria internazionale all'Università Bocconi di Milano, editorialista della Stampa. Eravamo rimasti in sospeso con questa domanda, professore. La Fed le sembra che abbia perso parzialmente o addirittura interamente, in gran parte, la sua credibilità? Perlomeno quella che pensa di avere ancora non la sfrutta, perché non fissa, non fa più nessun vero annuncio, non si compromette nemmeno più, e quindi e poi ci sono voci da tutte le parti. La credibilità dipende poi dalle opinioni che la gente ne ha su questa credibilità, e abbiamo un sacco di persone che pensano che ci siano pressioni molto forti da parte delle banche, che non vogliono che scendano i corsi azionari, che vogliono che continui questa bolla di borsa, quelli che sono interessati ai mercati dei cambi, il governo che vuole moneta, insomma, quindi c'è una, persino i politici, oggi c'è poi la questione che entriamo ormai in una fase elettorale negli Stati Uniti, quindi aumentare i tassi sotto elezioni. Insomma, sono tutte cose che fanno dubitare che la Fed sia indipendente. Senz'altro lo è sempre stato meno della BCE, anche perché la BCE ha più facilità a essere indipendente, visto che non ha un governo di sopra. Però adesso mi sembra che abbia una credibilità più bassa, che le nuoce, perché dovrebbe averla a livello mondiale addirittura, perché è la banca centrale più importante del mondo. Ho un'ultima domanda, brevemente, professore. Quanto ritiene che tutto questo dipenda da, se vuole, una serie di elementi che si sono affastellati negli ultimi tempi? Penso a come ha agito sul fronte della politica monetaria il Giappone, a come sta agendo la stessa BCE, insomma, al di là, come dire, dell'incertezza nella quale ci ha lasciato la Yellen, che lei ha sottolineato giustamente. Ma sai, il panorama delle politiche monetarie nel mondo è molto diversificato e molto disordinato. La Fed ha senz'altro un potere trainante, finisce a portare un po' tutti dalla sua parte. Il Giappone è quello che aveva cominciato prima a fare le politiche molto espansive, però alla fine è stata la Fed che l'ha guidata. È stata la Fed che ha fatto in modo che dopo la forte riduzione dei tassi che era necessario fare in seguito ai guai di Lehman nel 2008, questi tassi rimanessero bassi ancora a lungo e si continuasse con i quantitative easing, eccetera, eccetera, incontrando il mondo di liquidità e pensando con questo di risolvere i problemi che andavano risolti altrimenti. Qui ci vuole, fra l'altro, secondo me, un po' di coordinamento, cioè credo che il Fondo Monetario, per esempio, dovrebbe fare una specie di chiamata, insomma, nel senso: venite qui intorno, discutiamo, vediamo di dare al mondo una prospettiva sulle politiche monetarie dei principali paesi che sia credibile e che sia poi mantenuta. Ma non c'è questo coordinamento, le banchieri centrali si parlano pochissimo, se si parlano lo fanno in segreto. Quest'anno anche alla riunione tradizionale nel Wyoming non sono andati né Draghi né la Yellen, quindi sembra proprio che ognuno guarda a casa sua le pressioni che riceve e comincia a esserci una carenza di credibilità per il central banking a livello mondiale. Questo è veramente molto mondiale. Tutto un po' sfilacciato, mi sembra di capire. La ringrazio, grazie a Franco Bruni, docente di economia monetaria all'Università Bocconi di Milano, editorialista della Stampa. Buonasera e passiamo ai mercati. Mercati che di questa incertezza della quale ci ha raccontato il professor Franco Bruni non possono che risentire. Meno 2,6% il FTSE MIB, meno 2,39% il FTSE All-Share, meno 2,6%, così siamo precisi, ce lo raccomandate, meno 2,39%. giù anche le altre piazze finanziarie europee, Madrid del 2,5%, Francoforte di oltre il 3%, l'America giù dello 0,86% sul Dow Jones in questo momento. Andrea Fontana, Radio Corriere del Sole 24 ore, buonasera. Buonasera Simone. Ovviamente è la Fed che domina la giornata di oggi, no? Beh, certamente questo ritardo tattico, come qualcuno l'ha definito, della Federal Reserve ha innescato una reazione preoccupata dai mercati, sia per le indicazioni incerte su rialzo dei tassi di interesse, sia per gli argomenti che sono stati usati. Peraltro i mercati venivano da due sedute di rialzo in attesa di questa decisione, quindi una parte delle vendite probabilmente è anche una reazione al fatto avvenuto di conferma dei tassi, ma l'effetto preoccupazione si è visto, e si è visto soprattutto sui settori che sono stati venduti, in particolare l'auto, l'energia, le materie prime, che erano stati, in particolare l'energia e le materie prime, tra i migliori negli ultimi giorni, ma sicuramente vendite che riguardano molto la crescita economica globale e una certa attenzione, diciamo così, a trovare esposizione su titoli più rischiosi, quindi una minore propensione al rischio che si è vista non solo nelle dimensioni delle vendite, ma anche nelle sue caratteristiche, nei settori che sono stati scelti. Su Telecom Italia dello 0,45%, Pirelli dello 0,33%, Ansaldo STS dello 0,11%, World Duty Free dello 0,20%, le ultime tre nominate che sono tra le migliori insieme a Telecom Italia sono sotto OPA e quindi sostanzialmente seguono quell'andamento. Andrea, in breve dacci un paio di titoli che si sono distinti in giornata, nel male o nel bene. Beh, sicuramente la reazione di Telecom, che è stata equilibrata, cioè sulla parità in tutta la giornata, il mercato ancora si sta chiedendo, interrogando delle mosse di Vivendi, perché voglia salire o meno al 20%, come si dice, come sembra quasi scontato, e c'è stata anche una reazione finale che ha portato il titolo a più 0,45%. Ansaldo STS è vero che è sotto OPA, ma è arrivata il via libera dell'antitrust francese, quindi l'acquisizione di Hitachi sembra ormai alle porte. Non ha perso molto neppure Atlantia, meno 0,9%, anche qui sembra alle porte la vendita di un primo pacchetto a un investitore cinese di Aeroporti di Roma, una quota del 15%, una delle controllate di Atlantia. Molto male invece Prysmian, era stato tra le migliori nelle ultime sedute, ma qui è arrivato anche una bocciatura da parte di Goldman Sachs, bocciatura più che altro per il titolo, ha corso oltre il 30% dall'inizio dell'anno. Secondo Goldman Sachs ci sono alcuni fattori che consigliano una maggiore cautela, un po' di prudenza. Esatto. Grazie ad Andrea Fontana di Radio Corre il Sole 24 ore e buonasera. Ci fermiamo, ci ritroviamo subito dopo il giornale radio e parleremo di questo assemblea sindacale al Colosseo che tanto fa discutere. Ciao, sono Enrico Ruggeri, anche questa settimana grandi storie a Il Falco e il Gabbiano. Da Matt Groening, il geniale inventore dei Simpson, fino al grande artista Keith Haring, passando attraverso storie tormentate come Francesco Nuti e Sinéad O'Connor, fino a Aceto, l'uomo del palio. Tutti i giorni alle 15:30, naturalmente su Radio 24. Vi aspetto con Il Falco e il Gabbiano. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Di risposte ancora sulla Fed, intanto di nuovo buonasera da Simone Spezia, vi trasmettiamo dallo spazio Emilia Romagna di Expo, siamo sul Cardo, se ci volete venire a trovare saremo qua anche nei prossimi giorni. sulla Fed. Antonio chiede a chi conviene in questo momento aumentare i tassi di interesse in un quadro economico fragilissimo. Devo dire, Antonio, che a me il quadro economico degli Stati Uniti non sembra esattamente fragilissimo. Certo, ci sono le perplessità sulla crescita cinese, su quello che può succedere, sull'impatto che può avere, però diciamo il quadro dell'economia americana non è esattamente fragilissimo. Ed è giusta la sottolineatura che fa Ulisse, che ci scrive sempre al 349-238-6666 su quello che ci diceva il professor Franco Bruni, che qualcuno critica anche via SMS, però Ulisse dice: attenzione, Bruni ha detto la banca centrale americana sta perdendo la sua indipendenza. Un punto su cui riflettere. Fatto sta che la decisione di ieri della Fed ha avuto un impatto sui mercati, lo ricordiamo per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso: giù Milano del 2,6%, del 2,6%, del 2,39% sul FTSE All Share e del 2,6% sul FTSE MIB. E negativa anche l'America di circa un punto percentuale. Tra poco verremo, per così dire, alle nostre piccolezze, ma ossia al Colosseo, a questa assemblea che ha fermato i turisti fuori. E però prima voliamo un po' più alto. Parliamo di come l'innovazione ci sta cambiando la vita e può cambiare la vita. C'è un ciclo di incontri, di eventi che si intitola Edison Open for Expo, organizzato proprio da Edison. È stato ospite tra gli altri Joel Mockier, che è docente di economia e storia dell'economia, arte e scienza della Northwestern University di Chicago e membro dell'Accademia dei Lincei. Dice il professore che il ritmo dell'innovazione tecnologica è destinato ad accelerare, e di questo ce ne rendiamo conto tutti, evidentemente. Pensate solamente al fatto che 10 anni fa vi sarebbe sembrato impossibile tenere in mano uno smartphone solamente touch, questo solo per darvi un'idea. E però questo ritmo, invece di togliere lavoro, dice Mockier, controbilancerà fattori negativi come sovrappopolazione, crescita della disoccupazione e aumento del debito pubblico. Ascoltiamo questo passaggio. Come possiamo mantenere il ritmo di rinnovamento tecnologico che ha contribuito a rivoluzionare le nostre vite fin dal 1850? Invecchiamento della popolazione, crescita della disoccupazione, aumento dei debiti pubblici. I fattori problematici sono numerosi, ma sono pronto a sostenere che questi venti contrari saranno ampiamente controbilanciati dal vento della tecnologia, che è forte come un tornado e riuscirà a battere tutti i fattori contrastanti. Recentemente c'è stata un'ondata di quelli che chiamo tecnopessimisti, studiosi che sostengono che i frutti più bassi dell'albero dell'innovazione sono stati già tutti colti, e visto che le invenzioni più semplici sono esaurite, non si potrà più verificare un avanzamento tecnologico pari a quello registrato in passato. In pratica sostengono che i venti contrari alle nostre economie avranno la meglio, rallentando la crescita del PIL e producendo una situazione di stagnazione. Ma è proprio vero che il mondo ha esaurito le idee? Nel breve periodo tendiamo a sovrastimare gli effetti dell'innovazione tecnologica, mentre nel lungo periodo tendiamo a sottostimarli. Se l'andamento della storia non cambia, ed è un grande se, ci sono buone ragioni per credere che il ritmo dell'innovazione tecnologica non rallenterà nei prossimi decenni, ma al contrario è destinato ad accelerare. Intanto, accanto ai nostri studi, nello spazio accanto allo spazio Emilia Romagna di Expo Milano 2015, sta passando una banda, immagino che la sentirete di sottofondo. Si vedono giocolieri, si vede di tutto. Luca Burato, che è qua per la parte tecnica, apre la porta per far sentire meglio. Giocolieri, anche questo Expo. Cambiamo argomento e, visto che siamo ad Expo, luogo di turismo, parliamo proprio di come ci sono rimasti oggi i turisti che volevano andare a vedere il Colosseo stamattina presto. Mentre la cacofonia si introduce all'interno di questo studio. Dunque, questa mattina un'assemblea dei lavoratori dei siti archeologici romani che lamentano una serie di cose, tra cui per esempio che non sono pagati una serie di lavori, insomma, diciamo così, alcune giornate di lavoro. Cerchiamo di mantenere la calma con questa confusione, ci colleghiamo con lo studio di Milano dove c'è Salvatore Carruba del Sole 24 Ore. Salvatore, buonasera. Ciao Simone, buonasera a tutti. Eccoci qua. Allora facciamo così, lascio una parola a te per un commento su quello che è successo oggi, non prima però di aver detto che il Consiglio dei Ministri, che ha iniziato a riunirsi da poco, dovrebbe discutere anche di questi temi. Questa mattina Franceschini e Renzi si sono visti, hanno deciso di inserire sostanzialmente all'interno dei siti archeologici e i musei, all'interno dei servizi pubblici essenziali e quindi soggetti alle stesse regole. Vorrei da te un commento su quello che è successo questa mattina e capire se per te questa è la soluzione migliore. Ma io partirei dal personaggio che hai citato prima, il grande Mokyr, che io recensii sul Sole, anzi il mio articolo diventò un tema di maturità, perché Mokyr pone il tema fondamentale, cioè il fatto che dobbiamo abituarci a considerare che qualunque professione, compresa quella dei custodi museali, sarà, grazie all'innovazione, completamente trasformata. Il modo in cui si fruiranno i musei, le aree archeologiche, il patrimonio artistico, culturale, eccetera, sarà completamente rinnovato dalla tecnologia, vogliano o no i sindacati. Questo è il punto. Quindi bisogna organizzare tutta la struttura artistica, culturale del nostro paese in maniera innovativa, e credo che già il passo fatto dal ministro Franceschini, nominando i famosi 20 direttori che hanno l'autonomia, eccetera, vada in quella direzione. Che i sindacati si attardino a fare un po' di melina e a fare un po' di resistenza passiva organizzando le assemblee nei momenti di massimo affollamento di musei come il Colosseo, è sicuramente una prova che questa cultura non è stata ancora recepita. Capisco che ci possano essere dei problemi, delle difficoltà, però questi si risolvono rispettando anche quello che è il pubblico, che non è lì per caso ma rappresenta il nostro utente principale. Quindi secondo me bene farebbe il governo a intervenire in questo senso. Allora, loro dall'altra parte dicono, insomma, noi questa assemblea l'abbiamo convocata nei tempi giusti, c'era tutta la possibilità di avvertire i turisti. Vorrei parlare con te anche di questo, vorrei capire se secondo te, insomma, i sindacati che hanno agito così questa mattina, non è il primo caso, l'abbiamo ricordato, è successo anche a Pompei per esempio, avessero una qualche ragione. Qualcosa ci hai già detto, ma ne parliamo dopo il traffico. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Focus Economia. Buonasera da Simone Spezia, sempre in diretta dai nostri studi ad Expo Milano 2015. Siamo nello spazio Emilia Romagna, ci trovate sul Cardo. Per fortuna adesso la banda ha smesso, quindi forse mi sentite un filino meglio. Allora, Salvatore Carruba del Sole 24 Ore, ma qualche ragione non ce l'avranno questi sindacati? Ma i sindacati possono avere certamente ragione, non entro nel merito della loro contestazione. Il punto è capire se un diritto sindacale importante come il diritto d'assemblea può mettere in gioco e mettere a repentaglio l'altrettanto forte diritto di un cittadino italiano o straniero di entrare e di godere dei nostri beni culturali. Questo è il punto. Quindi, ammesso che i sindacati abbiano qualche ragione, non capisco per quale ragione non si debbano trovare delle forme di intervento, di partecipazione, di contestazione, chiamiamola come vogliamo, che rispettino anche i diritti altrui. Questo è il punto, ed è un punto che riguarda non soltanto i beni culturali ma un pochino tutti quelli che sono i servizi pubblici. Bene fa il governo a dire che alla fine il godimento dei beni culturali rappresenta un servizio pubblico. Non dimentichiamo che ci sono turisti che sono venuti qui magari a Roma per un paio di giorni e che si trovano danneggiati irreparabilmente da questa, da questa decisione. Quindi certo, l'assemblea si può fare, però non capisco perché non si possa, mentre l'assemblea si fa, tenere aperto il Colosseo chiamando i carabinieri in congedo, come, come proponeva l'ex sovrintendente La Regina, o dei vigilanti esterni. Sì. Danni ai diritti dei cittadini italiani e stranieri, e naturalmente non abbiamo nemmeno parlato, ma questo è evidente a tutti, della reputazione del paese in questi casi. Io ti ringrazio, grazie a Salvatore Carruba, grazie del Sole 24 Ore per questo commento. Siamo quasi in chiusura, ma prima di chiudere torniamo ai temi dell'economia italiana. Oggi a San Martino in Campo, siamo in provincia di Perugia, c'è stato il convegno nazionale di Confesercenti. Prima ne abbiamo già parlato dei dati forniti dalla Confesercenti, una crescita del più 0,8% nel 2015, ci avete detto a questo cauto ottimismo etero diretto, rispondiamo che no, è uno studio della Confesercenti del quale vi riferiamo, così come degli altri studi. Abbiamo chiesto a Massimo Vivoli, presidente di Confesercenti, che abbiamo intervistato questo pomeriggio, se appunto se ci sia un certo ottimismo oppure no. Nella nostra convention di Perugia, che tutti gli anni ne facciamo, questa è la quindicesima, abbiamo analizzato quest'anno l'andamento economico del paese, compreso tra l'altro un andamento dell'economia turistica con tutta una serie di altri fattori che riguardano la contraffazione. Noi abbiamo previsto una crescita del PIL nel 2015 dello 0,8, cioè ci auguriamo che rispetto agli altri dati che sono stati dati da Confindustria, ma anche da altre associazioni, noi corrispondiamo molto a quello che è stato, diciamo così, il dato che l'OCSE ha emesso due giorni fa, mi sembra, e ci auguriamo di sbagliarci. Noi il calcolo che abbiamo fatto è che il PIL nel 2015 crescerà dello 0,8, nel 2016 sicuramente, cioè dite speriamo che vada meglio, insomma, speriamo che abbia ragione Confindustria, speriamo che abbia ragione Confindustria. Volevo capire un attimo a cosa attribuite l'andamento comunque positivo. Certo, siamo sempre nell'ambito dello 0, quindi un sì, più 0,8%. Sì, mi sembra di capire che molto ha tirato il turismo e tirerà il turismo, secondo voi, con un effetto forte da Expo e Giubileo. Sì, intanto è un segnale positivo che dopo tanti anni i segnali negativi anche noi apprezziamo, nel senso che lo vogliamo valorizzare. Noi nelle proposte che abbiamo avanzato stamani è quello di consolidarla questa crescita qui, perché molto probabilmente ci sono stati una serie di frangenti che hanno tenuto a spingere in avanti il prodotto interno lordo, tipo quello che è stato sicuramente l'intervento che la BCE ha fatto nei confronti delle banche italiane, la diminuzione del petrolio e gli stessi tra l'altro 80 euro che sono stati dati. Cioè, questo ha rappresentato le difficoltà che ci sono stati di altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Certamente noi abbiamo accreditato questa crescita qui al settore del turismo, perché ha tirato effettivamente, dato dei dati positivi, tant'è vero che stimiamo che nel 2015 c'è stata una presenza di turisti superiore a 50 milioni di presenze, e anche gli stessi italiani, seppur facendo brevi vacanze, sono aumentati di circa 2 milioni. Nel rapporto che avete presentato c'è anche questo, quello che chiamate un risveglio delle botteghe, insomma un po' del piccolo commercio. Beh, a cosa è dovuto questo, Vivoli? Si è dato una spiegazione? Perché in realtà no, siamo in un'epoca nella quale si ritiene che a vincere sia necessariamente la grande distribuzione. Purtroppo c'è, cioè, il dato comunque del commercio è un dato sempre che dà dei dati di difficoltà, sempre per quanto riguarda, cioè il commercio non ancora, però noi diamo questo giudizio positivo qui per quanto riguarda la tenuta dei negozi storici che sono presenti nelle nostre città, cioè il fatto che hanno superato in questa fase qui una crisi molto difficile che da 7 anni vede consumi in special modo in alcuni settori molto ma molto difficile, e sicuramente ecco questo fatto qui, che ci sia stato una tenuta dei negozi, che ci sia stata una grande presenza per quanto riguarda il turismo ha tirato anche su anche i consumi. E questo per quanto riguarda appunto le botteghe. Vorrei venire ad un ragionamento più generale. Voi fate, di fatto lei ha fatto una lode al governo, ha detto il governo ha fatto un lavoro egregio, forse con un difetto di attenzione alle piccole e medie imprese. In queste ore il governo sta discutendo il documento di economia e finanza, tra un mese dovrà avere il via libera alla legge di stabilità, una legge di stabilità di dimensioni potenti, insomma, si parla di 25-26 miliardi, con una serie di interventi fiscali. Che cosa vi aspettate dalle politiche economiche del governo? Noi abbiamo dato atto al governo di aver fatto alcune iniziative come quella sulla riforma del lavoro, sugli 80 euro, sicuramente anche sugli sgravi dell'IRAP, abbiamo dato un giudizio positivo, abbiamo detto che si è ampliata anche al settore del turismo, sarebbe stata la riduzione dell'IRAP, sarebbe stata una grande occasione, forse è un'occasione che si è persa. Cosa ci aspettiamo dal governo? Ci aspettiamo che gli impegni che sono stati presi questa mattina dal sottosegretario Baretta, che si è dichiarato disponibile a un confronto sia sulla tassa di soggiorno per quanto riguarda il turismo e per una serie di altre questioni che abbiamo avanzato, ci aspettiamo intanto una diminuzione della pressione fiscale, interventi che riguardano la sburocratizzazione dell'intero comparto, in special modo quello del commercio, e agevolare quelli che sono gli investimenti infrastrutturali, quelli pubblici che poi tirerebbero anche quelli privati per il settore del turismo, lo sviluppo, sicuramente un intervento che riuscirebbe, diciamo così, a far rimettere la macchina in moto per le aziende che nel sud tra l'altro sono presenti oggi e che vedono una presenza molto ma molto numerica molto importante. Così Massimo Vivoli, presidente di Confesercenti, che oggi è a San Martino in Campo, provincia di Perugia, ha tenuto il suo convegno nazionale. Andiamo a chiudere così questa puntata di Focus Economia in diretta dallo spazio Emilia Romagna ad Expo. Siamo sul Cardo, ci saremo anche nei prossimi giorni se volete venirci a trovare e venire a vedere da dove trasmettiamo. I ringraziamenti per la parte tecnica a Carmelo Lauricella, Valeria Bernardi, Davide Ciocia e Luca Buratto. In assistenza in redazione Benjamin De Zulian e Barbara Bianchi. A tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Ci risentiamo lunedì alle 13 con Effetto Giorno. Radio 24. La passione si sente.